che ascoltava come esercitava la pelle quando muoveva la sua ufiacca. E Giuseppe li ascolti ancora? Sono a casa, non sono in alto da nessuna sabato, sono a casa, mi sono sdraiato, sono stato arrivato per lavoro. Santiago Novo. Radio 5 qua è Giuseppe, Santiago Nuovo, Radio 5 per te. E K, K2, allora, cosa mi racconti di bello? Ho lavorato sempre, cosa fu? Ho avuto da lavorare, ho detto iniziale che gli altri rientri, quindi la sera è occupata, ecco, di nuovo, fino alle 5:30, non tutti i giorni, però la maggior parte ho occupato la giornata impegnata che sia, diciamo, a primi giorni di Natale. A disposizione, no? Ho posto più nuovo di lasciare la palla in campagna, come ha fatto, so, ciò che con la campagna lì già che mi ha fatto lavorando, so, poi le tante, per i fuochi, dopo le cose, per le cose, so. Se ne può andare con la 50, perché se ci sono io, già l'anno scorso è stata una pessima, anche con quel segnato non c'era niente, già di ufami, per fare la biglietteca, beh, lo sento, lo fare tutte e figure, ho comprato una da Milisi, che è giusto per avere almeno un lettore, poi qualcosa di fino e quelli che riuscito giusto per le spese, cioè le spese, capi cosa c'è fatto, le spese, tutte quelle cose, quindi non si è messo in ma quando è stato qui per vengono sempre a salvarlo, i parenti e quindi ho voluto comprarmi un po', però ancora c'è proprio, non c'è uscito nulla in campagna, ma con i 10 quest'anno. Ma perché non è compatta a sorso Luca che ti fa vino muore? Non ci stavo, ci stavo anche pensando già, lo sai così, che avevo una nuova Sardegna in macchina, il primo posto che mi è capitato perché mi piace era quella, andare con un ricordato e scendiamo col furgone, come mi ha comprato il furgone, fatto la lavoro per il vino. Capite un Giuseppe, se mi ascolti, dopo lui ti supporto via di casa. Ok, Riccardo, non devo passare, e poi dopo, magari è negativa la zona per il tuo PH, come io non sono riuscito mai, ho letto a arrivare a muore, dice. Con il mio amico, mi dovevo stare sempre da parte degli altri, e a lui lo stesso, perché proprio lì non le onde, che non si faccia la parola con la vitale, ma va bene, e quindi rilasciamo a Giuseppe Leoncino e vediamo dove si trova. Ma parte degli altri amici che sono come frequenza, sia già Michele, sia a 100 milioni, ma quando mi sta facendo proprio la cosa continua, che ha sospeso un po', si è preso un po' di tempo anche per questa storia della sede che ancora non l'ha trovata. Comunque le scritture sono state già fatte, ci sono già tesserate cose. Sono contento, va bene, va bene. verso Barracuda. Buonasera giratore, e dove stai andando? Entrando tutto quanto l'Alghero, cambio. Ah, rientrando da Alghero. A quale rogero, leia. Rientrando da Alghero per fare un servizio a domicilio, capito, cambio. Già va bene tutto fatto. E allora Antonio, tu dammi racconti di quello. La verità, niente. Noi ci stavamo aspettando lunedì per venire a quel posto là. Siamo andati e... vabbè, non abbiamo fatto niente perché... dipende sempre da sezione a sezione, capito, Antonio? Lo so, lo so. E niente, per il momento niente di particolare. Noi stavamo aspettando, ho detto, ma Antonio viene, a me lo andiamo tutti e tre a via Zara, vediamo un po' cosa possiamo fare, ma ho detto Antonio può fare, ho detto, Antonio non viene, dai, andiamo noi, in caso no, che non succederà casini, tu? No, no, sto cercando un po' di risolvere alcune cose. Scusa, un po' più della circa, miseria. Stavo cercando di fare alcune cose, non ho avuto tempo, la verità non ho avuto tempo materiale, tutto lì. Che microfono stai usando con quella parete, Giuseppe? Per il solito, hai capito, quello della internet. C'è la modulazione che ti fa. Quella forte, no? Kappa. E lo sto tenendo da lontano, sto parlando, da lontano, sono attaccato al dove c'è lo specchio di retrovisione. E vabbè, non mi usciva il nome. No, ma non lo so per quello, perché te l'hai attaccato lì? Mi insuri, comprate, la mazza viene in vaglia. Passando in mezzo alla strada, e due macchine ci sono fermate, la mazza viene scena, ma io mano non ci sbattevano. Ma fa la traversata, beh. Per fare la traversata, no, un topo di campagna, la mazza viene paia, certo. O c'è Romi. Qui c'è di Romi, non è di campagna. Vabbè, mi chiamano Romi, certo voi. Ma adesso sono la bretella, cambio. La bretella, sì. Bretrella. Ma letto sì, già. Eia. E fa tempo. Che dice? Stavo andato a mangiare un po' di fretta. Sono già qui in capo, sono tanto stanco, sto lavorando a me questo figlio. Tirando il pedale, facendo, c'è un muscoli a piedi, fa poi la famiglia, c'è anche, come si chiama, Gianni di Muros. Gianni di Muros? Ehi, capri due. Attenzione Gianni, capri due, ma scusi ancora. Qualcosa, metterò la portante già, no... se qualcuno che sta mettendo la portante non ti fa parlare, capito, cambio. Ok, non ti preoccupare, sì, tu sei come al radio, come al radio, grazie. No, a bocca roba, sì, nemmeno più quattro, se non ci date gli ordini, ma vi parlavo che c'ha solo l'M93, l'M95, quelli della ZG. Ma il ti dica niente di particolare, no, per il momento non è venuto in mente nessun discorso da affrontare, qualcuno dia uno spunto per la situazione. Allora Antonio, poco fa mi stava chiedendo capo 2 se per l'associazione si faceva qualche cosa ancora oppure si era andato tutto a rotoli. Volevo una risposta che anche lui dice che si vuole scrivere. E cosa? Autocopiata? Che cosa? Oh, lascia perdere, no! Oh, sinceramente mi sarebbe piaciuto la verità, ma in questo momento sono impossibilitato, però volentieri. No, io appunto, no, anche a me piace più la 27 perché si è più libero di parlare, di scherzare, di fare. Ho sentito solo una cosa di questo qua che ha chiesto un controllo nella banda radioamatoriale, questo già detto. Che controlli diamo noi se li vogliamo dare, qui non si chiedono controlli. Sinceramente la verità non so neanche dove mettere le mani, perché la verità non ho mai avuto mai questa esperienza e dunque proprio sono ignorante in materia. Costruito l'antenna e va molto bene. Ho costruito l'antenna, durante me tutte le dismesse, ferme me le hanno regalate e ho fatto un'antenna piccolina, 75 centimetri, e va molto bene. Quando faceva 8x7, diglielo tu. 8x7 è pronto, 56 poi, scusi. Gianni, quanto fa 8 per 7? 56. Oh, 4 per 4 a Leoncino. Leonci. Ah, poi vuole rispondere. Che dici? Adesso Giuseppe, perché non è stata per lì, si copiami, perché non è stato per rispondere. Ha detto Leoncino. Ma, peccato, vai dell'arrocio prima o poi, voglio vedere che cosa mi risponde. Sì, io rispondi. Da pazzo sarebbe. La cosa già era, non sai che cosa, le espressioni all'epoca. Lo so, ma porca miseria, se diciamo, i figli non sono seguiti, guai, da grande si troveranno male perché saranno ignoranti e non riescono neanche a affrontare, diciamo, le piccolezze, e poi capita, quasi sempre capita l'occasione che ti trovi nelle condizioni in cui giustamente devi fare qualche operazione e non riesci a mettere le mani, guarda, lo sai come ti punta la gente, deve almeno sapere le basi, almeno quelle, poi piano piano si vedrà. No, a me non mi è mai piaciuta la matematica, però per forza di cose l'ho dovuta fare. Mi ricordo che si risolvevano così, prima le parentesi tonde, poi le quadre, poi le graffe. Confermi? Sì, hanno anche la verità, non ero fare un giro in matematica, per carità. In altre materie sì, odiamo molto il francese. La verità è in matematica, non è che ero tanto bravo, poi il resto andavo bene, solo geografia, poi non avevo mai problemi. La matematica, il francese, non era il mio forte all'epoca, Guarda, ma io andavo a Russia a ballare e a rimorchiare. La macchina cambia per te. No, perché l'altra volta mi avevi accennato che dovevi cambiare, che c'erano dei problemi, non so che cosa, avevi detto che l'ha cambiato. Preso fuori strada a cassonato, assai lui. No, con le Volvo già sono anche i buoni motori, molti chilometri c'hai. Diesel o benzina. E allora sfruttala, finché va, fa, cosa te ne frega? Se, diciamo, non spendi così tanto per dare queste, diciamo, tra virgolette, queste piccole manutenzioni, finché va, sfruttala, perché no? Ti attaccassi anche a quella che facevate. Ma venuta l'altra. Bravo. E poi se proprio non ci sta il gruppo elettronico con la roba lì, ci attacchi il carrellino, dietro la mette il carrellino, la roba, la macchina te la tiene sempre nuova. E, no, anche io, vabbè, un po' di tempo fa, un po' di anni fa c'era un Opel Corsa 1000, 12 valvole, 3 cilindri con l'impianto a gas, con un pieno di 12,50 euro, 13, a Everottino, e faceva 560 km. Allora, a me me ne fa 4,20 la mia, però lo stesso svego, e l'altro lo stesso svego. Quello era un 1000, 3 cilindri, consumava pochissimo in benzina e in gas, era un amore, era. Solo che poi mi aveva fatto quasi 200.000 km quel modello lì, anche troppo, perché non avevano dei difetti di fabbrica queste Opel, perché se nel caso un giorno sfortunatamente si bruciava la guarnizione della tentata, non si poteva riparare, perché montavano dei motori della Daihatsu, questa Opel, Opel Corsa, dei motori della Daihatsu. Poi ho iniziato un pochettino a difettare la pressione, a dei piccoli problemini, e l'avevo versata. Se no, guarda, se non avrebbe avuto problemi di tentate e cose del genere, l'avrei ancora avuta, guarda. Sì, già lo credo. Ma io sicuramente anche la Peugeot 206 facevo l'impianto a gas. Perché conviene così, anche per chi c'è in città solo conviene, perché consuma poco. Sì, quello sì, ti faccio un esempio, Mia sorella un po' di anni fa aveva la Renault Clio, il terzultimo modello, comunque era un modello nuovo, acquistata nuova, dopo 2 mesi e mezzo ha fatto l'impianto a gas, ecco, per questa macchina ha dato centinaia di problemi, problemi ai pistoni, problemi alle fasce, problemi alle pielle. l'ho praticamente fatto l'impianto del gas e ho riportato l'impianto del gas, si sono accorti che era consumato il motore, cioè aveva 20.000 km neanche, il motore consumato, siccome era in garanzia, la macchina riportata, diciamo, all'impianto del gas e ha rifatto il motore a nuovo, gratis, di nuovo risistemato l'impianto, la macchina perfetta, altri 12.000 km, di nuovo lo stesso problema, è rifatto di nuovo il motore, dunque di nuovo i pistoni, fasce e compagnia bella, e poche parole, per quel modello lì, vedi, l'impianto del gas ha corroso il motore, gliel'ha consumato, allora risistemato, ritolto l'impianto a gas, andava a benzina e versata. Vedi, quel modello lì, l'impianto del gas nel Renault Clio non si può, non andava bene. Ma Calvino, chi mi fa l'impianto a gas a me lo sa quelle che vanno bene. Prendi, c'è andata una con un fuoristrada e gli ha detto che non le faceva perché non andava bene su quel motore, che è inutile che la prendeva in giro, perché poi sarebbe stata 15 minuti. Io sono d'accordo, ma adesso mi ricordo il nome, la verità. Comunque la necessità, però la pedaniera, quello che fa più impianti a casa di tutto Sassari. E Calvino, era Calvino. È un amico, è una persona molto onesta, vai per dire quando c'è il gas sporco, vai, ti smonta il polmone, te lo pulisce, te lo fa, quanto devo andare, capi? Niente, vai, ciao. Ah, dovrebbe essere lui, sì, no, ma è stato onesto. Ci è rimasto un pochino tra virgolette, ma non credeva che avrebbe tutti questi problemi a quel modello lì. A volte capita, sai, che modelli a volte non sono predisposti per queste cose, ecco, tutto lì. E niente, l'aria è sistemata e poi non l'ha voluta più, l'ha venduta. Senza impianto a benzina funzionava benissimo, senza nessun problema, c'è pure impianto da fare tutti questi problemi qua. No, comunque li ha risolto tranquillamente. L'impianto era in garanzia, è stato l'impianto, diciamo, il gas alla fine in sé, che dava questi problemi, ha risolto tranquillamente, niente di particolare. Però vedi, a volte sono dei modelli che, sai, come che non lo digeriscano il gas, alla fine. Bisogna sempre chiedere prima di, diciamo, di affrontare questa spesa. Vedi, nello percorso non l'ha fatto lui, è andato sempre breve, lei non ha avuto mai un problema. Perché io? L'opera va benissimo, nella stessa scioglievo cammina quasi alla stessa velocità di quanto cammina benzina, fatti il conto. Sì, quello sì, qualche cosettina puoi perdere, ma con nuovi impianti, diciamo, sono abbastanza studiati per rendere il massimo possibile i minimi consumi, e quello è normale. No, ormai non so come quei modelli vecchi, adesso sono molto più all'avanguardia, la verità. Avanti Capri. E consuma più liquido. Ah, le prendo io, capito. Ah, te l'hai fatto tu il lavoro della frizione del motore. Ah, va, va, va. E beh, così fa la capelli è portata. Ah, Cappaga. E te l'ha fatta lì. Cappaga. Ma adesso ha le conci, mi lo sai lo Allora. Va capito. Vediamo un po' se vuole entrare qualcuno, avanti se c'è qualcuno che vuole entrare, se no magari questo passaggio troppo lungo non riesco a entrare, avanti. Sto tranquillo, sto beccando, non riesco a entrare, buonasera. Ciao Luca, ben sentito, buonasera anche a te. Ciao Luca. Un attimo, scusa, che c'ho la... No, adesso ho un problema. Aspetta, scusate. Ma parla già un attimo, ciao perché? Ciao anche a Gianni Capri 2, parla già. Cosa c'è allora perché lo smicchia? Ma apposta, apposta, non è perché lo volevo... No, apposta, dai, niente, niente. Sono stanco, c'ho gli occhi mi bruciano, madonna. Aspetta, ti dico, sono molto stanco, ma ieri non ce l'ho fatta manco a parlare, ma la chi lo stavo ascoltando e mi sono mettendo così ascoltando, ma non sono riuscito manco a entrare, tanto tutto che entro per addormentarmi pure. Però vabbè, io non c'ho nessuno, neanche l'arrivo, boh. Sì, che c'era. Yeah, io vi saluto, uno entra e l'altro esce. Comunque non sono zio Falchetto, Antonio Falchetto, no, sono Antonello, va bene. Saluta a tutti, ci sentiamo alle prossime, allora buon divertimento. Tanto è... se vuoi siamo qua, non c'è problema, puoi rientrare dopo, dopo la lancia. D'accordissimo, a più tardi, dai. Buon proseguimento di serata a tutti. Buonasera, salutoni qui dalle Capelue che ti super cordializza. Stavamo facendo chiamate per salutarvi e giustificarmi del fatto che non sono in, in ruota oggi, perché sto festeggiando il mio genetriaco, quindi assolutamente era esclusivamente per salutarvi, per dire che ci fosse e augurarvi buon QSO anche oggi, e da domani sarò di nuovo dei voi. Ok, intanto neanche io diciamo partecipo. Se volte stiamo facendo un momento, come detto le notizie, quello che fosse l'ascolto e più niente, comunque non fa niente ancora, sono anche io. Sono così, è molto contento, non c'è proprio, però la passione tantissima sempre. E quindi non, se, non sempre che se ne ha voluto, qua c'era la vacchia, ho sentito quattro anni, c'era Antonio Parracuda, c'era Leoncino, tutti ha fatto un po' compagnia Domenico e niente, hai capito, e mi sembra che la serata è stata quasi al termine, riprendi già. Però riprendo, ma mi sta venendo la pioggia, dico la verità, sono molto molto stanco stasera, anche ieri sera lo ero, e siccome manca gente, quindi sto lavorando in negozio al posto degli altri, e il frutto non mi fa piacere la sera, quindi faccio tutte queste cose, sono pregane pesanti, piene d'acqua e cose, quindi ti stanca. Stai diacicando e ti sento molto stanco. Comunque dai, vi saluto, rimango in radioascolto e ci sentiamo alle prossime, è stato comunque un piacere, assolutamente domani sarò di nuovo di voi. Buon ben sentiti, ben ascoltati, siete 351 e alla prossima, ciao ciao. Sempre bisogno dato troppe. Ah, rimane 5 minuti. Non relativo, ho degli ospiti perché, come ho detto, sto festeggiando il mio genetriaco, cioè il mio compleanno, quindi non posso rimanere, però ripeto, mi faceva piacere un attimo salutarvi. Auguri allora, vai, e buona festa, e ricopio il vino. Auguri, Claudino, buonasera. Chi è? Immaginatelo chi sono. Superpotenza, cambio! Cos'è, non si era abbigliato quel barattino? Chi è stato preso un altro questo? Complimenti, esce a bomba anche con questo, fa tutti dire che questo va anche meglio. Sai che Lucino quando fa le scelte le fa giuste, lo sai, no? No, tu. Va bene anche tu, dai. Ti saluto di nuovo, ci sentiamo e vi devo un aperitivo. Io, Antonio Bro, tanti auguri e comprarlo con la mia 50 anche oggi. E quindi, no, io ho feste non ne abbiamo fatto, la faccio da domani, una posizione sordina. Quindi domani faccio 25 anni di matrimonio, però facciamo in sordina perché la nostra mamma che me ne dà molto, quindi ho iniziato a tanto e non voglio fare più piaccio del tanto. Ok, di nuovo, io adesso signori mi approfitto anche per chiudere, anche per 10 anni, è un po' stanchino, Giuseppe, forse più giovane di noi, e ci vediamo domani, ragazzi, buonanotte, salutare voi, mettetevi in correa, e metto di tutto a Leoncino, se mi sta ascoltando, poi ascolto il finale di Gianni e poi anche io, chiudo e ci sentiamo domani, se Dio vuole. Ciao Gianni, Capri 2, 444, volevo fare saluto di Corea e ce lo risentiamo tutte le prossime. Va avanti Gianni, tocca a lui. Papà, ciao Gianni, ci sentiamo, un buon continuo serata, vai. A presto. Ciao Gianni, non è che continuo che io, tu sei a letto, non so adesso, faccio una passeggiatina per dire anche lui le gambe come ho seduto e poi anche io passerò il 144. Allora, a presto di sentirci, saluto anche tutti gli amici che sono in ascolto su canale 10, passo in cuore di veramente si incappa, non lo lasciamo ancora scendere, perché la tua notte si sente e rimbomba. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Sono rimasto io e tu e la Rose. Grotte se n'è andato, sta fatti da tutti. Io sono qui a quadrato, adesso, già. cose pinta. E io mi sono sdraiato perché sono proprio distrutto, Giuseppe, cioè le gambe a piedi. La gamba e le braccia mi fanno male, le dita e le mani. Ho lavorato con un negro che non ho appunto voglia, se no volentieri. No, non c'è problema, dai. Tanto ormai riguarda l'ora, l'ora X che tutti quanti sono andati. Ma io ti voglio portare un giorno in un posto a mangiare un panino. Dopo mi dici vero. Non c'è problema, già. Portalo. Ho portato per la mente. Dai, ci sentiamo alle prossime, già. Ehi, là, ciao Giuseppe, ci sentiamo, va? Ma buonanotte, a te. Avanti, Bibi. Sento, non sento come è per questo canale, come? Cos'è? Io non sento un abbiccio di come è per questo canale, invece gli altri c'è. Eh no, non c'è nessuno, già, non c'è nessuno, lo sai, no, non c'è nessuno, non senti nessuno a QRM, solo la mattina oppure durante la sera nel pomeriggio senti un bel casino. Ma deve esserci lo squash in chiuso, se voglio fare la lana, cosa è chiuso lo squash? C'è una telefonata, ragazzi, sembra, non si sente nulla, è proprio solo la tua voce. Caffa. Già è più bello così, Vabbè, ma non c'è nessuno, non ci sono, hai capito? Non c'è, riesci a fare quel show tranquillo. Io mi accendo la vicina, mi pare strano. Oh. Era così, Giuseppe. E non c'è nessun segnale? Ci sono sento. No, c'è lo scorcio chiuso. Ah, cazzo. Sembrava strano, capito? Ho preso la pigliata, ma che cosa? Caffa, adesso vado lì a Corso, dal Bardaniere, prendo le sigarette e poi me vado a casa. Ehi, ehi, no, no, no, non c'è nessuno stasera, no, c'è, non vuole rientrare, Grove sta festeggiando il suo compleanno, e niente, sta facendo festa. No, no, ci sentiamo domani, già con calma, dai. Buonanotte, Giuseppe, lascia il computer, ciao ciao. Ciao ciao.